Care amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, Bruxellando, Mari Divida, il benvenuto anche questa sera, in questa sera rivoluzionaria, perché ogni volta che si pensa al 14 luglio non si può che non pensare alla rivoluzione francese. Quindi salutiamo i nostri vicini, cugini francesi che oggi festeggiano la loro ricorrenza più importante. Insomma, avviene poi in un momento in cui storicamente sono accadute tante cose in queste ultime ore, soprattutto chi è qui a Bruxelles ha vissuto in un certo modo anche quello che è l'ultimo summit, l'ultimo summit che ha visto protagonisti il popolo greco. Quindi, insomma, sono stati effettivamente momenti difficili, ma ci auguriamo che effettivamente il peggio sia passato. Quindi, insomma, come qualcuno ha detto, come ebbe già a dire qualche tempo fa, non può esserci un'Europa senza democrazia e chiaramente la Grecia simbolizza questo e non solo. Questa sera sono anche oltremodo contenta perché, mentre intanto saluto Daniemma alla regia e saluto tutti voi, scusate, a volte mi faccio prendere dall'entusiasmo, insomma, di raccontarvi anche quella che è l'attualità brussellese, quella che non è squisitamente e solamente prettamente radiofonica. E questa sera sono contenta perché sapete che ho una predilezione per i giovani, per i più giovani, quelli che scalpitano, no? Quelli che si vogliono far conoscere, quelli che sanno di valere o comunque umilmente di avere un'idea e vogliono condividerla col pubblico. Quindi questa sera vi presento un giovanissimo artista. E parliamo di pittura questa sera, parliamo di un tema che abbiamo affrontato a Bruxellando più di una volta e protagonista con noi è un giovane siciliano, 24enne, pensate, probabilmente fra poco 25enne, Giuseppe Alletto, che devo dirvi la verità, mi ha colpito per la padronanza lessicale, anche per la forza che è riuscito, secondo me, a comunicare in un'intervista telefonica. Quindi restate con noi perché c'è questo bel momento di idee, non solo perché parliamo di arte, parliamo di artisti, parliamo di presente e anche di futuro con un ragazzo giovane che, seppur tale, ha già maturato più di una esperienza. Dopo l'intervista con Giuseppe vi lascio, come al solito, con i nostri Georges Laurent e Fiordaliso. Quindi auguro a tutti voi un'ottima serata. Ancora per chi può di festeggiare il migliore dei modi, date che in un certo senso ci fanno ancora riflettere su quello che è il valore dell'Europa di oggi. E vi auguro un'ottima settimana, perché poi il 21 luglio, cioè martedì prossimo, si festeggia un'altra festa nazionale, che invece è quella proprio del Belgio, di Bruxelles, quindi date importanti che Bruxellando ha piacere di ricordare. Restate con noi, Radio Alma, Mariddì e soprattutto sentite che cosa ci ha raccontato ai nostri microfoni Giuseppe Alletto. Care amiche, cari amici, quindi come annunciato in apertura sono contenta perché riusciamo anche a parlare d'arte. E non so se è un caso oppure se è una coincidenza, ma ne parliamo quasi sempre verso la fine dell'anno, quando sembra che ormai non ci sia più spazio di parlare di pittura, e invece poi, come già accaduto un paio d'anni fa, come già accaduto lo scorso anno, verso la fine, dedichiamo spazio anche a un modo diverso di esprimere l'arte, che non è né la parola, né la parola cantata, né la parola poetica, ma invece quello che si esprime non parlando, che si scrive con le immagini. Tra l'altro lo facciamo con un autore giovanissimo, già questo mi sembra essere veramente un successo, quindi uno dei motivi per i quali lo abbiamo invitato a Radio Alma Bruxellando è anche per questo. Meridionale siciliano, quindi sapete, meridionale come me, anche se io non sono siciliana, ma mi sento di spirito meridionale, quindi sono veramente felice di avere qui con noi in diretta telefonica dall'Italia Giuseppe Alletto. Giuseppe, benvenuto a Radio Alma Bruxellando. Buonasera a tutti, è un piacere insomma essere con voi questa sera e poter così magari dire qualche parola sull'arte, anche sulla radio, che talvolta diciamo questo argomento manca. Tu che ne pensi? Assolutamente, sono d'accordo con te perché, sai, non è facile rendere poi in immagini tutto ciò che ci diciamo a voce, invece non posso trasmettere ora mentre stiamo parlando uno dei tuoi quadri, un po' della tua arte, quindi dobbiamo essere un po' astratti. Momenti diversi, è chiaro che ci creiamo della difficoltà nel tradurlo via radio, insomma, questo mezzo. Però mi fa piacere farti conoscere al nostro pubblico. Tra l'altro tu hai un sito internet, ma ne parleremo strada facendo, quindi per quanti fossero comunque curiosi, per quelli che ci stessero ascoltando, magari gli puoi ricordare già il tuo sito, così iniziano magari a percorrere le tue pagine. Visitare il mio sito, basta digitare Giuseppe Alletto su Google ed è indicizzato come il primo. Poi l'indirizzo completo è www.giuseppeallettopittorepalermo.it. Ecco, mi ricordavo che non era proprio semplice da ricordare a memoria, quindi ecco, fatto bene a ricordarlo. No. Così invitiamo già i nostri amici all'ascolto, insomma, a googlarti, come si dice da queste parti, sì, e a rinvenire un po' della tua arte. Allora, tu sei giovanissimo, classe 1990, quindi toglimi una curiosità, ma come nasce la tua passione per l'arte? Perché sai, studiarla sui banchi di scuola, alle medie probabilmente, alle superiori, ma poi farla diventare una professione, come tu hai fatto. Io sono affacciato all'arte proprio dopo la scuola media, perché per ironia della sorte, insomma, ho avuto un rapporto un proprio idilliaco con la professoressa d'arte a scuola media, quindi ho, diciamo, in quegli anni non ho fatto nulla. Poi subito dopo mi è ritornata questa passione che avevo avuto un po' da bambino, da ancora più piccolo, e quindi ho ricominciato a disegnare, e poi così anche durante gli anni del liceo classico ho continuato a disegnare durante le lezioni, insomma i professori mi lasciavano fare nelle estati, e poi piano piano, diciamo negli ultimi anni della scuola superiore, ho cominciato a fare le prime mostre, già si è un po' profilata, un po' più come carriera, non solo più come passione, anche se rimarrà per sempre una passione, diciamo, qualsiasi sia il percorso che potrei riuscire a fare, ecco. Quali sono le tecniche che prediligi? Qual è la tecnica che ti piace di più, che ti riesce meglio? Diciamo, in questo, come appunto potranno vedere gli amici dal sito, se lo visiteranno, spero di sì, potranno vedere che per ora mi sono dedicato soprattutto a tecniche grafiche, quindi grafite, cioè matita, la comune matita, ancora pastello, talvolta unisco i due mezzi. Precedentemente ho usato molto l'olio, in classico olio su tela, e credo che prossimamente ritornerò a usarlo per la nuova serie di opera. Per ora mi sono dedicato alle tracce, insomma, li ho risolti quasi tutti con la matita. Quali sono i temi che ti piace di produrre di più? Quali sono quelli che tu adori? O che ti vengono meglio, forse, non lo so. Ma, diciamo che il tema che mi ha sempre interessato è l'uomo in tutte le sue parti, soprattutto nelle sue componenti più, diciamo così, oscure. E quindi quella stessa, quegli stessi colori scuri, quella stessa atmosfera, diciamo che metto anche nei ritratti, finisce per essere una sorta di corrispettivo, ecco, di quello che sento, e corrispettivo di quello che per me è l'uomo. Quindi potremmo così, diciamo, detta in due parole, potremmo dire che il mio tema forse è fondamentale, il lato oscuro dell'uomo. Guarda, è molto interessante, perché mentre parlavi pensavo al chiaroscuro e pensavo proprio alla matita. E allora mi veniva proprio da pensare, questo lato oscuro, come lo esprimi? Che cos'è che ti affascina in particolare? Sì, diciamo che appunto, infatti hai centrato perfettamente, il mezzo con cui fondamentalmente lo esprimo meglio, anche se non sono il primo nella storia a usare questo mezzo, è appunto il chiaroscuro, cioè questo contrasto tra le parti in luce, le parti in ombra, comunque le parti più tenebrose, ed è questo punto, secondo me, che più mi lega a uno dei miei miti, evidentemente noi quando pensiamo al chiaroscuro pensiamo a lui. E anch'io, diciamo, non ho resistito al fascino di Caravaggio, e quindi anche Verna, insomma, continua a utilizzare quel mezzo. Io invece, sai a chi pensavo mentre tu stavi parlando dell'uomo in tutte le sue sfaccettature? Pensavo anche a Leonardo. Sì, Leonardo è anche uno dei miei miti, più che altro per la completezza, ecco, della sua indagine sull'uomo. E poi anche lui, come sai, nell'ultima fase ha usato un forte chiaroscuro. Assolutamente, certo, certo. Quindi questo magari mi porta a chiederti in una maniera più didattica, magari, quali sono state le figure che hanno influenzato in particolare la tua curiosità artistica? Caravaggio l'ho appena citato, ma immagino ce ne siano ancora altri. Sì, diciamo, per quanto riguarda i pittori antichi, quindi quelli non contemporanei, chiamiamolo così, il mio pittore preferito in assoluto è Michelangelo, poi diciamo in seconda istanza Caravaggio, e poi Caravaggesca, ad esempio Ribera, che è un pittore spagnolo, ma che ha operato per molto tempo a Napoli, sempre nel 600. E poi sia per l'indagine sul ritratto, sia perché è siciliano, insomma, e poi al di là del fatto che sia siciliano, lo ritengo veramente uno dei più grandi in assoluto. Antonello da Messina è un altro dei miei punti di riferimento per i pittori antichi. Guarda, per i pittori contemporanei amo Gerhard Richter, che è un pittore tedesco, insomma, ne ho qualcosa, pur essendo siciliano, ecco, credo di avere qualcosa in comune con una certa estetica nordica. Lo so, perché Richter, insomma, da queste parti, come potrai immaginare, è molto conosciuto e popolare, però mi veniva da pensare, hai citato vari personaggi con qualità e caratteristiche diverse. Mi colpisce il fatto che tu da pittore abbia anche citato Michelangelo. Sì, perché in realtà io dico sempre questa frase, cioè che se fossi nato nel passato avrei fatto lo scultore. Perché diciamo sono sempre stato attratto, insomma, dalla scultura, cioè sono attratto da ciò che è tridimensionale. Credo che nel disegno io cerco, anche inconsciamente, seppure ormai ne sono ben consapevole, cerco di tirare fuori più che posso la figura, cioè di farla uscire, ma naturalmente una volta è impossibile, dato che è un disegno, è sempre un piano tridimensionale, ma forse nel mio inconscio io voglio cercare sempre di tirarla fuori, cosa che avrei potuto fare se avessi fatto lo scultore. Ma dato che oggi non credo che purtroppo ci sia più spazio per la scultura seria, diciamo così, allora mi sono dedicato alla pittura, però ripeto, effettivamente la scultura rimane per me un sogno che non si è mai avverato. Capisco, anche perché insomma la scultura implica anche un saper fare, una plasticità che non è immediata con la pittura, quindi hai risposto tu prima, però magari il senso di profondità che tu dicevi, quindi questa plasticità che poi porti dalla scultura alla pittura, immagino sia impegnativo, ecco, insomma, ti richiede molto esercizio. Sì, sì, ad esempio nel disegno, ecco, l'utilizzo del chiaroscuro per fare questa cosa qui è fondamentale, e forse potremmo così dire che Michelangelo rappresenta un esempio per me proprio per questa sua volontà, quando andava a operare in pittura, di in un certo senso andare a chiareggiare, come lui diceva, nel resto, proprio con questo, se non sbaglio, voleva che la pittura chiareggiasse con la scultura. Tu fai il contrario. Il tuo piccolo. C'è una frase molto bella, se ricordo ancora le mie conoscenze di qualche tempo fa, in cui Michelangelo diceva una cosa molto bella, diceva: non sono io a scolpire il marmo, io seguo quello che giace nel marmo, c'è una sua anima, che poi riesco a modellare. Allora ti chiedo la stessa cosa, immagino che quando tu ti trovi davanti una tela, o uno schizzo, o una qualunque cosa, ci sia quella paura del bianco, che penso accomuni un po' tutti, no? Dagli artisti come te, ai poeti, ai cantanti che intervistiamo qui a Bruxellando. Che cosa ci dici tu in merito? Come vinci questo momento, questo primo panico, che immagino sia solo iniziale? volte che bisogna di volta in volta, ogni volta che vai a fare un quadro bisogna superare. A volte si riesce a effettivamente subito a cominciare ad operare, magari a fare il disegno preparatorio e poi procede, altre volte effettivamente si rimane lì, mi è capitato anche di rimanere ore intere davanti alla tela oppure il foglio bianco. Poi comunque alla fine almeno c'è questo, che anche se uno passa delle ore bruttissime, forse le peggiori che si possano passare queste davanti al foglio bianco, però alla fine effettivamente diciamo, l'ispirazione non si tradisce, alla fine arriva dopo alcune ore, insomma, procede con grande piacere, insomma, eseguendo l'opera. Ecco. E che cosa ti ispira? Che cos'è quel momento, quella magia, no? Della creazione? A te, cioè, da dove viene? Quali sono queste fonti di ispirazione? A volte la cosa più bella, anche se è rarissima, cioè effettivamente mi è capitato solo pochissime volte, credo capiti in generale pochissime volte, veramente sembra a volte non venire dal nulla, cioè, nel senso che così, divagando con la mente, finisce per arrivarmi un'idea che sembra, almeno mi sembra l'idea giusta. Certo. Poi altre volte è chiaro che ci sono, in un certo senso, potremmo dire, ognuno, ecco, ha dei trucchetti per farsi venire l'ispirazione, anche se sembra un controsenso, ma si cerca sempre di forzare l'ispirazione, di farsela venire. È un controsenso, perché uno, l'ispirazione è appunto qualcosa di magico che uno non dovrebbe poter decifrare, però d'altra parte, appunto, come Leonardo ci insegna, c'è sempre la parte razionale in noi che agisce, in un certo senso noi cerchiamo di forzare l'irrazionale, cioè di razionalizzare l'irrazionale, e quindi di cercare l'ispirazione per procedere a lavorare sostanzialmente. Quindi ho dei trucchi che possono andare da quello semplice di guardare immagini, insomma, da un libro, non so, ascoltare anche la musica, ad esempio. Certo. Effettivamente mi ha sempre aiutato, oltre che dipingo sempre con della musica nella stanza, insomma. Quindi vedi, è un insieme di più arti che, insomma, insieme sì, riescono poi a trovare per te quella giusta dose di ingredienti che ti permettono di dipingere. Però, a parte queste difficoltà oggettive, che credo siano comuni veramente un po' a tutti coloro i quali si cimentano con le arti, quali sono le difficoltà principali che si trovano in un mestiere come quello che hai deciso di fare? Quello dell'artista, appunto. Sì, diciamo che qua al sud Italia, purtroppo, ci sono proprio delle difficoltà ambientali, chiamiamole in questa maniera, nel senso che c'è poco di tutto, ecco, nel senso che poche gallerie, pochi critici, quindi questo è chiaro che riduce ancora di più la possibilità di fare una mostra, eccetera. Purtroppo, ecco, rispetto a una città come Milano, già tutto il sud Italia, insomma anche tutte le altre parti d'Italia, sono nettamente inferiori, purtroppo, perché poi a livello di artisti, ad esempio, io penso che anche le persone che sono coinvolte nella prossima mostra che farò, che sono della provincia di Agrigento, li ritengo degli artisti effettivamente, diciamo, molto validi, che potrebbe essere molto validi anche a livello internazionale, però purtroppo anche loro, dato che sono rimasti in Sicilia, hanno poche possibilità, perché appunto poche sono le vie di accesso qui. Certo. E quindi questo fondamentalmente, tanto è vero che io, nonostante questo possa suonare come una nota amara, sono in procinto di lasciare l'Italia, perché sto concludendo l'ultima materia all'università, mi sto laureando in storia dell'arte, ora sto facendo un corso intensivo di lingua inglese per prendere un attestato che mi permetterà di frequentare una accademia di Londra, per fare il corso di curatore d'arte, insomma, di Bravo. Curatore. Questo, diciamo, naturalmente c'è in me l'entusiasmo, che è chiaro, anche l'entusiasmo giovanile per questo viaggio, insomma, per questa nuova esperienza. D'altra parte è evidente che c'è qualcosa di amaro, perché diciamo, è in parte, potremmo così dire, ancora nel mio piccolissimo, un ulteriore fallimento dell'Italia, insomma. Sai, comunque il mondo dell'arte è un mondo un po' difficile ovunque, è comunque probabilmente un malessere generalizzato, ecco, se questo ti vuoi... Sì, ti può incoraggiare l'arte, soprattutto in questo momento, in questo periodo, e questo è vero per tutto, è vero per la tua arte in particolare, ma anche per gli scrittori, soprattutto quelli più giovani, perché devono scalpitare di più, insomma, faticare di più per farsi conoscere. Ma veniamo alle cose belle, perché di cose belle ne fatte tante, ecco, non sarei così negativa. Tu hai fatto già tante cose, quindi veniamo alla tua carriera propriamente parlando, quindi magari ci racconti una o due esperienze significative che tu hai maturato in questi anni. Diciamo, come esperienza significativa potrei citare un incontro che in realtà non ha dato vita a chi sa quale progetto, ma è più che altro un bellissimo incontro, perché con un grande personaggio che ho avuto l'estate scorsa a Milano, insomma, ho conosciuto Gillo Dosses, sono andato a casa di Gillo Dosses, che come si sa, insomma, è uno dei più grandi artisti che si tratta a livello internazionale. Quello che mi ha colpito di questo personaggio è stata l'incredibile umiltà, nonostante la sua più che veneranda età, e soprattutto una carriera veramente straordinaria. E poi anche è stato bello perché mi ha dato comunque dei consigli, e quindi questo è stato bello umanamente, anche professionalmente, nel senso appunto che quei consigli li tengo come delle cose molto preziose, insomma, da tenere sempre a mente. E poi, come diciamo, fatto più strettamente professionale, potrei citare l'ultima mostra che ho avuto a Salerno, alla Galleria XXS, curata da Salvo Servito e dal professore Leo Giunta. È stata una mostra, diciamo, che mi ha colpito soprattutto in questo caso l'affluenza del pubblico, è stata molto al di sopra delle mie aspettative. Quindi vedi che ciò che piace, poi magari, cioè, tu riesci a trasmettere un messaggio che piace, che coinvolge poi un numero di persone che non ti aspettavi. Sì, no, effettivamente questa è sempre una bellissima sorpresa, perché alla fine ogni volta che uno crea un'opera c'è sempre il dubbio che possa non dire sostanzialmente nulla. Invece quando si vede questo coinvolgimento è una cosa che effettivamente si paga di molti sforzi, insomma. Allora, abbiamo detto tante cose belle questa sera, abbiamo parlato del tuo amore per l'arte, di tanti artisti, abbiamo nominato artisti che hanno fatto la storia dell'arte in Italia e nel mondo, abbiamo parlato di queste tue prime esperienze, di questi tuoi primi passi in un mondo sicuramente non facile, quindi ci sono delle qualità, ci sono secondo te dei prerequisiti per il lavoro come il tuo, oppure credi di no? Ma credo che prerequisiti chiamerei soltanto requisiti, nel senso che naturalmente magari ci vuole quella scintilla che appunto è inutile che andiamo a razionalizzare, quella cosa che proprio ti spinge a mettersi lì in gioco, diciamo, con l'arte. E poi per quanto riguarda i requisiti, certamente direi la dedizione, nel senso la capacità di mettersi lì a lavorare per ore, anche a studiare, ma in senso lato. Conoscere sempre più artisti, trovare continuamente su una tela, sul storio, e poi quindi direi l'umiltà, ma non nel senso, diciamo, come la intendono molti, forse sbagliando, cioè l'umiltà come posso dire, mancanza di slancio, oppure mancanza di spirito competitivo, mancanza di ambizione. Ma l'umiltà, appunto, che ti spinge a stare lì ore a lavorare continuamente e soprattutto a cercare di superarti continuamente. Questa è l'umiltà, perché se tu cerchi di superarti continuamente vuol dire sostanzialmente che non sei mai contento al 100% di te stesso. Certo. Quindi direi questo, insomma. Poi non so se sono adatto per dare consigli a giovani, dato che io stesso sono appunto abbastanza giovane, ma direi che forse tutti noi, il primo io, Assolutamente, Giuseppe. Allora, mi dicevi prima, mentre aspettavamo il collegamento in cuffia, che c'è una mostra che si apre tra qualche giorno, che ti vede, rivede protagonista. Magari ci accenni brevemente di questa tua mostra? Sì, questa mostra si terrà questa stessa settimana, verrà inaugurata sabato 18 luglio alle ore 19 in una galleria che si chiama La Fattoria dell'Arte di Lorenzo Reina. Il luogo è Santo Stefano di Crispina, in provincia di Agrigento. È un luogo veramente magico grazie alla presenza di un finto teatro greco creato dallo stesso Lorenzo Reina, che oltre a essere un gallerista, un attento gallerista, è anche un ottimo scultore che ha lavorato con grandi critici. La mostra la condivido, per così dire, con un altro artista che si chiama Giuseppe Agnello, che forse il pubblico conoscerà perché è colui che ha creato la statua, diciamo così, ufficiale di Montalbano, oggi posta nella piazza di Porta Empedocle, in provincia di Agrigento. Durante la presentazione c'era naturalmente Andrea Camilleri e quindi vi aspetto insomma in questa mostra. La mostra quindi è il giovedì 18, giusto? Quindi Sì, il titolo ufficiale, ecco, il titolo ufficiale della mostra è 8 opere e un luogo. come mai un solo luogo? Perché la Sicilia? Perché l'arte? Che cos'è il luogo? Sì, 8 opere sono perché abbiamo scelto solo di inserire 8 opere in maniera che la gente possa concentrarsi solo su poche opere. Poi un luogo credo che possa essere considerato con riferimento alla bellezza del luogo dove andrò a fare la mostra. Effettivamente è come se fosse un'ulteriore opera rispetto a quelle mie e a quella di Giuseppe Agnello, che è veramente un posto incredibile. Io ad esempio veramente non sono mai stato in un posto così bello. Ci sono stato un paio di anni fa. Bene. Nella mia pagina Facebook, anch'essa molto facile da trovare, basta googolarmi appunto ed è subito dopo il mio sito, potrete vedere molte foto che ho caricato di questo luogo bellissimo. Quindi, Giuseppe, c'è qualcosa che non ti ho chiesto che vorresti ancora indirizzare agli ascoltatori di Radio Alma e di Brussellando? Abbiamo nucleato insomma un po' tutto, poi comunque mi è piaciuto quell'ultimo riferimento ecco, all'umiltà ecco, in cui credo fortemente, quindi direi che ho detto tutto. Poi ti ringrazio anche non solo per l'intervista, anche per avermi fatto citare in maniera così approfondita questa ultima mostra che, ripeto, condivido con Giuseppe Agnello. E che ricordiamo, quindi si aprirà quindi il vernissage, come si dice da queste parti, giovedì 18, durerà quanti giorni per tutti coloro i quali verranno anche in Sicilia in vacanza? Sabato 18 Ah, è luglio, sabato, scusa, ho fatto confusione. Sabato 18. questo sabato 18 luglio alle ore 19, presso la Fattoria dell'Arte Lorenzo Reina a Santo Stefano di Crispina, in provincia di Agrigento. Perfetto, quindi noi invitiamo gli ascoltatori che dovessero anche casualmente trovarsi da quelle parti di partecipare a quelle che sono le attività di Giuseppe. Per quelli che non potessero, invece, ricordiamo il sito di Giuseppe, giuseppealletto.pittore, se non sbaglio, lo dicevi prima all'inizio, ho cercato di. Sì, www.giuseppealletto.pittorepalermo.it, ma potete trovarmi ancora più facilmente, basta inserire, scrivere soltanto Giuseppe Alletto su Google e sono il mio sito, insomma, è il primo nell'elenco, ecco. Quindi non potete sbagliarvi, c'è veramente solo lui. Giuseppe, noi ti ringraziamo di averci fatto conoscere la tua passione per l'arte e non solo. Ti auguriamo davvero tutto il meglio e all the best and lots more, visto che ti avvii pure tu per quelle lande del nord. E vi ricordo anche che le pagine di Giuseppe sono in inglese, per quanti ci seguono e che non parlano fluentemente l'italiano, ma che vogliano, insomma, saperne di più su Giuseppe. Giuseppe, quindi noi speriamo, insomma, magari, chissà, in un futuro prossimo di ritrovarci. Sarebbe bello, io sono sempre a vostra disposizione, mi è piaciuta moltissimo questa esperienza in radio. E noi ti ringraziamo e quindi Radio Alma Bruxellando in particolare ti ringrazia e ti rinnova gli auguri per un futuro veramente radioso. A te, buonasera. Eccoci, tornati in studio. Ciao a tutti, Bruxellando After, come gli After Hours, come After Eight, insomma, Come After After. Dark, After Dark. che lui è di Murakami, tanto per farvi sapere. E perché è importante? Perché si parla di libri in questa trasmissione. Cioè, vagamente mi ricordo di qualcosa del Sono genere. stanco, sono stanco, stanco, stufo, marcio di sentire, di parlare di libri in questa trasmissione. Dimmi che hai qualcos'altro, dimmi che si può parlare di qualcos'altro, per favore, dimmi. Opera nel cinema. Opera e cinema. Signore e signori, questa sera benvenuti a Bruxellando, Bruxellando pazzo, Bruxellando estivo, Bruxellando che sta terminando, Bruxellando che fra poco finirà, prenderà la sua pausa estiva, ma perché noi Piangere, andiamo tutti in vanno in vacanza, Ma dai. certo, anche noi andiamo in vacanza. Beh, allora questo Bruxellando questa sera, invece di parlarvi di libri, ma forse un po' No, insaggio, ma vabbè, e parliamo. non me lo togliere completamente. E vabbè, allora giusto un po', giusto un po'. Però Giusto. prima, parliamo Prima. di qualcos'altro. Va bene. Opera e E cinema. cinema. Operate. Operiamo! No, perché c'è questa Un bisturi 5. Ok? Taglia. Com'è la pressione? Lo stiamo perdendo! Operiamo. Allora, quello che dovete sapere, magari lo sapete già, è che in varie cinema di Bruxelles c'è l'iniziativa Viva l'Opera. Beh, io non Cioè, sapevo niente, come non dici sapevi qualcosa, non ne niente? sapevo niente, non è che poi uno può sapere, non ne sapevo niente, Va bene. io Comunque ci ammetto, sono non ne sapevo niente. alcune delle opere che trasmettono sono addirittura in diretta, quindi ci sono alcune che ci sono prese registrate, quindi come andare al Solo cinema, proiettate. solo proiettate, mentre ce ne sono delle altre che sono in diretta, che ancora secondo me è un po' magari cambia l'atmosfera anche nel cinema, Ma no? io non ne Ma sapevo niente, di proprio non ne questo ne sapevo niente, parleremo non ne dopo. sapevo niente. Cioè, quello Ah, che ne vi parleremo consiglio è che... dopo, Sì, sempre aspetta. poi, prima niente. Avevamo detto prima l'opera e poi questa sera sono terribile, lo Questa sera Giorgio è so. Ma io terribile. non sapevo niente, Quindi vero? quello che... Attenzione, George, ragazzi, stasera vi mangia tutti. Quindi mangerai anche la tosca? Beh, ho in mente una tosca che avrei mangiato volentieri. Allora puoi mangiarla il 10 e il 13 settembre. A settembre è rimandato? L'ho rimandato a settembre? Io chiedo aiuto al regista. Qui mi si vuole rimandare a settembre. Ah, ma io sapevo che appunto gli esami di riparazione erano stati Aboliti? aboliti, quindi George, o sei bocciato o sei Ma promosso. questo è stato abolito in Italia, qui invece c'è ancora la Allora, sessione di riparazione. l'erratrapage. Ti Rattrapage. rattrapiamo noi. Rattrapatemi, quindi a settembre, 10-13 settembre, alla Tosca dove? È la Tosca. Aspetta, perché Ma di qua chi mi è la sto per. Tosca, poi fra l'altro? Cioè, meglio, chi è il regista della Tosca? Se Scusate, riusciamo a trovarlo. se riusciamo a trovarlo, allora. Mi piacerebbe avere qualche così news sull'opera. Chissà se il nostro regista è andato mai all'opera. Caro regista, sei mai andato all'opera? No, all'opera devo dire che non sono mai andato. Sono andato al balletto, sono andato Oibò. al cabaret, sono andato dei Oibò. concerti, ma opera, no, dico una balla, ci sono stata un'opera una volta. Si chiamava Don Carlos. Molto interessante. L'unica cosa è che era in Germania e che i figuranti e gli attori erano vestiti al giorno d'oggi, ma è un'opera del 1700. Quindi vedere gente con i pantaloni stracciati e le ciabatte era un po' faceva strano, però è stata fu la mia prima opera. Bene. Ah, benissimo. Che ne abbiamo avuto. Comunque, Tosca è di Puccini e sarà Sì, trasmesso certo. nelle UGC di De Brouckere e anche all'UGC di Antwerpen, per quelli che eventualmente vivono più vicini ad Anversa. E quello che volevo an ancora dirvi è che la bellezza dell'opera al cinema e che il collegamento o la registrazione comunque di case operatiche, diciamo, di un certo livello, quindi si parla dell'Opera di Parigi, della Royal Opera di Londra, Royal Opera House. Royal Opera House, quindi si tratta comunque di spettacoli di un certo livello. Non parliamo neanche della differenza del biglietto per andare, per esempio, all'Opera di Parigi rispetto ad andare in cinema e per diciamo 15-20 euro godersi lo stesso spettacolo. Perché l'opera quanto costa? Beh, ovviamente io non posso dire un'esatta somma, dato che sei stato tu l'ultima volta in diretta, quanto costava? Beh, insomma, ci sono i biglietti della prima che possono arrivare anche a 300-400 euro. Ecco, Se no per c'è il esempio. posto, come si suol dire, in piccionaia. Il posto in piccionaia, invece, cambiando un attimo accento, il posto in piccionaia te la cavi anche con 10 euro, però non è che si vede poi molto, insomma, cioè No. di solito c'hai davanti un bel muro, però ascolti. Sì, ascolti, questo è vero, ascolti, però vedi poco. In Leonetta cinema Quell. invece vedi tutto in primo piano, che si può anche discutere se questo sia un vantaggio o uno svantaggio, perché quando ci siamo stati noi per vedere una rappresentazione della Royal Opera House, per esempio, a me mancava un po' la visione d'insieme della scena per vedere cosa succede oltre alle bellissime espressioni delle facce dei protagonisti. Quindi comunque uno potrebbe anche dire, vabbè, quel che guardi è stato selezionato o prefiltrato da qualcun altro e non necessariamente sta volgendo l'attenzione sulle cose che volevi tu. Sì, questo. Infatti, il cinema, cioè l'opera al cinema non sarebbe poi male se però non si volesse sfruttare il fatto di essere al cinema. In effetti, devo concordare con te che io preferirei andare al cinema ma vedere lo schermo intero del palco. Quindi, se non vedo perché gli attori sono lontani, se gli attori sono lontani, punto e basta. Invece mi pare che al cinema comunque loro facciano, almeno nel caso che abbiamo visto noi della Royal Opera House, abbiamo visto il Guillaume Tell, che gli inglesi si ostinano a chiamare William Tell, e non ho capito ben perché, visto che sono austriaci No, e l'hanno chiamato Guillaume Tell comunque. William Tell, more than once, Oh. William Tell, che anche in Italia Guglielmo Tell, vabbè. Non sarebbe proprio giusto, ma l'ha scritto in italiano, vabbè. Però l'ha ambientata tra la Svizzera e l'Austria, cioè in Svizzera con gli austriaci, e vabbè, ma non nella Svizzera italiana, non c'era. In quale Svizzera? Quella tedesca, allora si chiama Wilhelm Tell. Però proprio William, no. William, no. William, neanche William Shakespeare, tal Guglielmo Crolla Lanza, di cui parla grande autore. Ma insomma, vabbè, tornando al nostro cinema, abbiamo visto questo Guglielmo Tell al cinema, e devo dire che le riprese erano fatte appunto con un concetto, con una filosofia tipicamente visiva, televisivo-cinematografica, cioè con dei primi piani, eccetera. Anche interessante da un certo punto di vista per vedere le facce e rendersi conto meglio delle espressioni dei vari personaggi, fra l'altro poi parleremo anche mi piace molto il coro in questo Guglielmo Tell, dei vari personaggi, però il fatto che si mettesse appunto a fuoco un volto, un'espressione, faceva perdere il contesto, cioè che cosa succedeva intorno mentre io stavo guardando questa bella espressione del personaggio, non lo so. E mi pare che, sono d'accordo con te, perché mi pare che in qualche modo si perda. Si rischi di perdere qualcosa, quello che succede in scena. Ovviamente questo però dipende anche dai registi. Ci sono registi che danno preponderanza a chi in quel momento sta cantando e quindi la scena è molto ridotta perché gli altri sono fermi. C'è chi invece tratta il palcoscenico dell'opera come un palcoscenico di teatro, in cui anche chi sta fermo sta comunque recitando anche in quel momento. Per cui perdersi quella persona ferma che comunque sta recitando significa perdersi una parte dell'azione. Ah, sì. È così. Non so se concordi. Ma quanto ne sa George di teatro, ragazzi? Ma è, è quello che mi chiedo anch'io, ma quanto ne sa? Cioè, niente, ma sei proprio ignorante. Beh, se noi seguiamo la programmazione, per esempio, della Royal Opera House, che purtroppo invece di fare il contratto con i cinema bruxellesi ne ha fatto un contratto con un cinema a Mechelen e un altro a Turnhout. Lei dice perché c'è uno scozzese a capo della Royal Opera House? O perché volevano in Bruxelles un altro episodio? No, io sono convinta che la ragione sia che Viva l'Opera, l'iniziativa esiste già da un bel po' di anni e quindi i cinema bruxellesi come UGC si accordano con questa iniziativa già esistente che lavora soprattutto con le case diciamo francofoni. Diciamo. Case. Le case francofone, e quindi ci potrebbe essere semplicemente una situazione di ok, vabbè, ma non ci prendiamo un altro pacchetto opera, ce ne basta una. Cioè, praticamente lavora con l'Opera de Paris e poi? Non ti potrei fare mica. Non hai visto il contratto? Non hai visto il contratto? No, non ho visto il contratto. Non hai visto il contratto? Proprio. Cioè, no, allora c'è l'Opera Nazionale di Parigi, poi l'Opera Nazionale di Lione, ma c'è poi anche Salzburg, quindi a Salisburgo, che non è molto francese effettivamente. No. C'è l'Opera di Zurigo, che neanche quello è un po' francesino, ma comunque sia Salisburgo che Zurigo sono due case comunque molto prestigiose, possiamo dirlo? Possiamo dirlo. Sì. Bello come Fiordaliso dica case per house, poi opera house, la casa dell'opera. E mi piace la casa operatica. Casa operatica. Sì. Allora, ci sono neologismi che vengono trovati a Bruxellando. State in sintonia, state sempre sulle nostre onde, perché noi qui creiamo nuova lingua. Le dovremmo chiamargli imolismi. Bello, questo è un 3-0 per il regista, cioè proprio un bonus, è un tiro da 3. Sono gli imolismi, sono i neologismi di Imola, imolismi, bellissimo. Vabbè, comunque il programma è molto interessante anche a Bruxelles, si tratta di, cioè sì, abbiamo già detto Tosca, poi c'è anche, ci sono le nozze di Figaro, e ad ottobre c'è anche la dannazione di Faust. Questo però per quanto riguarda Bruxelles. Questo per quanto riguarda Bruxelles. Quello invece per quanto riguarda questa iniziativa della Royal Opera House in provincia, diciamo, nelle case operatiche provinciali, per utilizzare degli imolismi, là danno anche dei balletti che a me interessa, devo confessare. Per esempio la prossima è Romeo e Giulietta, che sarà il 22 settembre. E direi che io avrei un certo interesse di vederlo. Anche loro danno le nozze di Figaro, tanto per farti capire perché a UGC non abbiano preso le nozze di Figaro a ottobre, anche loro, quindi praticamente in pura competizione. Vuoi vedere quello della Royal Opera House o vuoi vedere quello dell'Opera di Parigi? E io qui però mi dai l'assist per fare un tiro. L'assist? Sì, ma lo tengo in sospeso per il momento, quindi il pallone è ancora alto, sta facendo la sua parabola discendente, fra un po' io lo beccherò, ma ancora no, infatti il regista ha già ben capito di cosa parlo, ma invece devo farti una domanda. Dimmi, fammi una domanda. Cioè, io ho anche nel mio lontano passato, molto lontano passato. Sì? Feci anche, sì. Il regista fa dei gesti con le mani, come se volesse darsi aria ai capelli. Sta dicendo che sei antico. Sto dicendo che è passato molto tempo da quando appunto era quel tempo, a quel tempo è passato molto tempo ora, insomma, vabbè. No, feci anche alcuni seminari di teatro danza. Però, onestamente parlando... Col tutù? No, senza tutù, ma con la mia bella tutina. E però devo ammettere che non è una forma d'arte che non mi prende. Non riesco a capire. Ammetto l'ignoranza, perché in realtà credo che sia solo una questione di ignoranza. Quindi devo ammettere la mia ignoranza. Secondo me non è solo ignoranza. Diciamo che, almeno io per esempio non sono un'appassionata dell'opera, però ci sono certe... e sicuramente dipende dal regista, ma ci sono certi registi che che davvero fanno rivivere l'opera, e non, che non è più semplicemente un visionare e ascoltare passivo, ma effettivamente ridi sulle scene comiche, perché ce ne sono nelle opere, e senti molto più la trama, e questo è molto importante anche per il ballo, perché per esempio i balli come Romeo e Giulietta hanno una storia, e i danzatori hanno questo, specialmente il coreografo, ha questo difficilissimo task di tradurre questa storia in ballo, che tu attraverso il ballo possa sentire che cosa sta succedendo senza aver bisogno di alcune parole. Questo è comunque una combinazione fra ballo, bellezza e anche capacità di interpretare. Quindi secondo me dipende tantissimo da quel che riesce a fare sul palcoscenico, sia per l'opera che per il ballo, che magari è ancora più difficile, e io vorrei semplicemente dare l'opportunità che qualcuno mi mostri che cosa si possa fare, cioè quale vertici di arte si può raggiungere per comunicare il messaggio o la storia, perché si può, ne sono convinta che si può. E secondo me, quando anche tu lo trovi, in quel momento là, anche tu dirai, ok, vabbè, ma questa l'ho capita. Cioè, è tipo dire, l'opera non mi interessa generalmente, ma quest'opera in particolare, con questo, diciamo, fatto con un certo concetto, invece sì che mi piace, lo guardo volentieri, anzi lo guardo anche, mi porta dentro il mondo dell'opera o del ballo. Beh, visto che sembri così... presa da questa, consumata questa passione, raccontaci un po' invece quello che hai visto al cinema. Hai detto Guglielmo Tell, però poi non ci hai detto nient'altro. Hai detto, ma forse il cinema, hai contestato il cinema, ho parlato di cinema rispetto all'opera in diretta. Beh, cioè... raccontaci un po', cosa è successo? La ragione per cui ho provocato una visita al cinema di Mechelen è che si trattava esattamente di un regista che a me piace, di cui abbiamo già parlato, che si chiama Damiano Micheletto, che effettivamente trasforma l'opera in qualcosa di molto vivo. Abbastanza conosciuto, direi, ormai. Abbastanza conosciuto. Si dice astronascente, insomma, uno dei più conosciuti al momento, uno dei più ricercati. Beh, diciamo, tra i giovani, anzi, perché è molto giovane, fra l'altro. Sì. E quindi anche in quest'opera, che in cui si tratta un po' della lotta del popolo svizzero per l'indipendenza dagli austriaci, anche là, per esempio, essendo un tema di guerra, riesce proprio a introdurre quel sentimento, quella tensione, quelle contraddizioni che sono proprie alle guerre anche oggi, e anche questo è un tema universale. Quello che però magari lui è capace di fare è effettivamente rendere palpabile quest'idea o questo sentimento, invece di, diciamo, renderlo troppo estetico, cioè lo rende reale invece che solo estetico. Non so come esprimermi, magari reale nel senso che si percepisce come tale, si percepisce la violenza, si percepisce si percepisce, sì, cioè per esempio c'è una bellissima scena in cui Guglielmo Tell sta lottando con la sua sorte mentre tutti stanno facendo festa, tu il suo personaggio vedi già questa lotta fra sì, vabbè, sono tra di voi, ma allo stesso tempo lo so che la mia sorte mi sta portando verso una altri lidi e terre e non ci capiamo più fondamentalmente. C'è il momento in cui il capo villaggio è ucciso, cioè è una scena fortissima, davvero, anche dal punto di vista di teatro, direi. Poi c'è anche la scena tanto combattuta, se siete state seguendo l'opera sicuramente avrete sentito, oddio, scandalo, c'è una scena di stupro, oddio. Anche quella scena è semplicemente una scena forte che ci sta benissimo, perché dà proprio quella gravità alla storia che non romanticizza più la storia, cioè nel senso che lo sto presentando piuttosto... sì, sublimato, perché non è che... Cioè, secondo me fare lo stesso in un film in modo molto più esplicito potrebbe essere molto più pesante e nessuno si lamenta. Mentre farlo sul palcoscenico di un'opera in modo anche un poco sublimato, perché non è che... Mm-hmm. è, E comunque, semplicemente dà forza alla storia e non capisco perché qualcuno si debba lamentare. Da un lato mi verrebbe da dire molte cose. Da un lato la gente che frequenta la prima di qualsiasi casa operatica, come chiami tu, che ha un certo tipo di pubblico. Poi però bisogna vedere, secondo me, il pubblico dei giorni successivi, che è un bel po' diverso da quello della prima. E quindi io darei più, se fosse per me, darei più credenza, cioè darei più credito al pubblico dei giorni successivi che a quello del primo giorno, perché quello del primo giorno è eccezionale, cioè è al di fuori, rimane comunque una cosa diversa dal resto. E per quanto riguarda invece quello che tu dicevi, la sublimazione eccetera, non lo so, io credo che ci sia comunque nell'opera una parte di passione diversa rispetto al cinema. Il cinema è qualcosa che ti viene proposto e non puoi reagire, cioè reagisci di fronte a un muro, di fronte a una pellicola che certamente non ti ascolta. Nell'opera invece, dato che succede in diretta, così come a teatro, si crede di poter fischiare o comunque di poter cambiare qualcosa con la passione, di modo che nei giorni successivi ci sia un cambiamento. La pellicola è statica, quel che è, vai a vederlo o non vai a vederlo, e invece magari uno crede, ma forse qui si può cambiare qualcosa. E magari è vero, perché magari si può sempre fare dei ritocchi, nessuno praticamente lo fa mai, ma teoricamente è possibile, proprio perché sia questo rapporto diretto con la musica, con gli attori, con i cantanti, quindi si crede di poter fare questo. C'è un rapporto diretto, io credo che sia questo quello che da un lato spinge la gente a coinvolgersi di più e dall'altro anche appunto a fare delle critiche che magari il cinema non avrebbe fatto. Avrai ragione. Probabilmente avrò ragione, però quello che volevo dire sul pubblico invece mi tacca, non posso dirlo perché... Ma... Comunque, diciamo qualcosa, spezziamo una lancia sul pubblico delle opere. Mi pare che il pubblico della prima sia un pubblico sicuramente di aficionados, di gente assidua, che però va all'opera perché vuole vedere l'opera così com'era. Così com'era o come... Così com'era. Diciamo che per molto lungo tempo, secondo me, l'opera è diventata una... diciamo piuttosto uno spettacolo per l'udito e un po' meno un po' meno teatro, mentre nei vecchi tempi effettivamente era ambedue, era già sempre assolutamente ambedue. Non sarebbe stato un concerto magari è un po' sì, bello, estetico, cioè sicuramente anche le scene sono sempre state belle, eccetera, però il pubblico dell'opera predilige ai costumi, alla storia la prestazione dei cantanti, di riconoscere, come quelli che vanno al concerto e stanno cantando insieme al cantante e si emozionano in questo modo. Secondo me non è che il pubblico delle opere sia completamente diverso, magari è meno a briglia sciolta, diciamo, però è la stessa cosa. Però io sono d'accordo con te, nel senso che secondo me sì, il fatto di andare all'opera per ascoltare la musica significa tradire l'opera stessa. Mm-hmm. Perché l'opera è fatta di una parte visiva e di una parte cantata, di una parte sonora. Se io prediligo questa sonora a discapito di quella visiva, non va bene, e viceversa lo stesso. Se do solo predominanza o più importanza alla parte visiva dimenticando quella sonora, allora vado a vedere qualcos'altro. Credo che sia importante, sia necessario essere educati a vedere entrambi. Bisognerebbe anche che magari le scuole educassero fin da adolescenti ad apprezzare l'opera. Io mi ricordo che andammo con la scuola a visitare per esempio le prove generali di un'opera, ecco, e a qualcuno suscitò un interesse che poi si è sviluppato in magari la più grande, abbonamento all'opera, eccetera, eccetera. Ma penso, non so se si faccia ancora nelle scuole. No, che sappia io no, anche se si potrebbe fare. Però attenzione, perché l'opera è comunque L'opera è classica, ci sono anche opere moderne, ma non tanto quanto il tempo. Cioè, non dimentichiamo che al tempo, se uno vuole sentire la musica, deve andare all'opera. Se vuole vedere e sentire, andava all'opera. Non c'era né cinema, né autoradio, né wifi, né iPhone, né cuffiette. Cioè, quindi non è che uno poteva sentire, oppure andava a sentire la classica banda del paese, o andava a sentire il concertino di quelli che suonacchiavano e passavano per la strada con gli strumenti. Insomma, non c'erano modi, altri modi o modi altri di sentire la musica. Adesso la musica è ovunque, dovunque, senza, e si può avere senza nessun problema, quindi credo che la fruizione della musica sia anche diversa. Poi la musica di adesso, spesso dalla musica pop, alla musica grunge, eccetera, abbiamo un apporto diverso, non c'è più né l'imponenza né la sonorità di allora, non che sia peggio quella di adesso, io non mi permetto di giudicare, dico solo che ci sono dei cambiamenti anche stilistici, dei cambiamenti sicuramente nei gusti che e anche della lunghezza di attenzione che è richiesta, cioè, per un'opera sì, devi seguire 3-4 ore. Assolutamente sì. Ecco. 3-4 ma anche ore. Nel gusto del cinema, il cinema che di 30 anni fa ci sembra molto lento, sì. Adesso i cinema sono di una velocità incredibile, quindi anche la musica adesso è molto veloce, invece l'opera rispecchia quei tempi e quindi a volte lunga, eccetera, sono cose divertenti di uno che in scena muore e ci mette circa 15 minuti a morire, nel frattempo canta a squarciagola, quindi cose un po' assurde. Che però hanno il loro senso, perché ho dato l'idea che sto morendo, ma non è che sto morendo per davvero, insomma. Era molto fatto di simboli più che di... Tutti indicano l'orologio. Io non vi capisco stasera che cosa avete. Comunque, c'è uno, non mi hai fatto parlare di libri. Due, non ci arrivo neanche a menzionare che recentemente ho visto Amadeus, e comunque che è un bellissimo film e che riproietta un po' in questi tempi di cui parli tu, in cui la musica aveva un ruolo completamente diverso nella società, e comunque l'ho infilato dentro e adesso...